Il sipario è già stato alzato e la festa segue il suo corso. Il mio lungo, triste discorso fa parte di ciò che è rappresentato. E intendo andare anche e ancora avanti, ve lo prometto, è la mia intenzione. Svegliatevi i sentimenti e fatemi bene attenzione. La mia testimonianza costituirà la prova. Ce l'ho qui, fra le mani, per bollare quei cani che considero nemici. Mollo le gomene, do fuoco alle polveri ed eccovi il mio primo sparo. I miei versi son versi sciolti per le bordate del varo.